Si aggiunge a noi il sassofonista, sassofono tenore, soprano e flauti Gianni Bedoli. I prossimi quattro temi sono tutti derivati dalla canzone politica internazionale. Il primo è Viene dal Cile, è il famoso, la famosa canción del poder popolare. Thank you.